1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. 7:19 minuti, eccoci cari ascoltatori, siamo qui puntuali come sempre a leggere i giornali. E dai, state con noi, velocizzatevi nelle vostre giornate, rallentate, nelle vostre colazioni infinite e dai, tuffiamoci nella lettura dei quotidiani. È martedì 22 marzo, siamo qui, i titoli, Sole 24 Ore apre su Telecom, corre in borsa, attesa sul dopo Patuano, Patuano amministratore delegato che si dimette e la scelta su chi ricadrà, questa è una domanda che ci si pone nel mondo economico e non solo. Certo, devo dire che la maggior parte dei titoli dei quotidiani sono dedicati alle studentesse morte in Spagna in questo incidente di autobus e soprattutto vedrete i volti di queste sette italiane che sono morte, erano andate a una festa e stavano tornando a Barcellona. I titoli per il secondo giorno consecutivo sono abbastanza simili. Il Corriere della Sera, l'autista, sì, mi ero addormentato. Questo è il titolo di prima pagina. Repubblica, Erasmus, il dolore dell'Europa. Per la Stampa, sette ragazze, un sogno spezzato. Il Giornale, le sette facce che l'Italia piange. Per l'Unità, non ci resta che il loro sorriso. E ci sono le sette foto delle ragazze italiane. Per chi invece sceglie un'apertura diversa, Avvenire, la svolta di Cuba, storica stretta di mano tra Castro e Obama. Cuba c'è, è il titolo del Manifesto in prima pagina, mentre invece Libero, proteggere la famiglia è un diritto, si torna sul tema legittima difesa. L'apertura invece del Fatto Quotidiano, Carrai 007 di nuovo bloccato, ma si sblocca l'appalto al socio. Dal secondo giorno consecutivo il Fatto Quotidiano si concentra su Marco Carrai vicino a Renzi e sulle persone a lui vicine. Ma partiamo da questa sentenza che certamente farà nuovamente discutere, perché riparte la questione sulla stepchild adoption che è stata tolta dalla legge sulle unioni civili. Ma una sentenza del Tribunale dei Minori di Roma, una sentenza storica, perché per la prima volta si applica a due uomini, anche se già in passato questa legge era stata applicata a due donne, ha fatto consentire al Tribunale di Roma di dare in adozione un bimbo a di fatto due papà. Mariolina Iossa lo racconta sul Corriere della Sera, pagina 20, ma la sentenza è commentata su tutti i giornali. Nuova sentenza storica del Tribunale per i Minori di Roma. I giudici hanno concesso l'adozione di un bambino di 3 anni, figlio naturale di un uomo che vive stabilmente in coppia da oltre 12 anni, al compagno di quest'ultimo. I due si sono sposati 5 anni fa in Canada. Sempre in Canada sono tornati quando hanno maturato la volontà di avere un figlio per ricorrere alla maternità surrogata. Capite che la storia ricorda un po' quella più celebre di Niki Vendola, raccontata di recente, anche se in Canada e non in California. Hanno scelto il Canada, scritto nella sentenza, perché è il paese che maggiormente garantisce i diritti delle coppie omosessuali, soprattutto proibisce la maternità surrogata con finalità commerciali. E ora sono tornati in Italia. E per firma di Melita Cavallo, presidente del Tribunale per i Minori di Roma fino a metà dello scorso gennaio, anche nostra ospite, e che ha firmato questa sentenza pochi giorni prima di andare in pensione, sentenza ora inappellabile perché la Procura non ha fatto ricorso e sono scaduti i termini, ha deciso appunto di dare l'adozione alla coppia facendo riferimento a una legge del 1983, la legge 184, modificata all'articolo 44 nel 2001, ma anche facendo riferimento alle convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia, la convenzione di Strasburgo, la giurisprudenza italiana che comincia a diventare robusta riguardo alla stepchild adoption. Ovviamente le accuse, abbiamo sentito prima anche Mara Di Nolfi a dire, beh, ma così si fa entrare la vicenda dell'utero in affitto dalla visto che non è entrata dal Parlamento dalla porta di servizio, se volete, cioè le sentenze della magistratura. Così attacca per esempio Avvenire: eccola stepchild per sentenza. C'è anche un commento dal titolo La politica surrogata, scrive Avvenire: più che un trend ormai è un'abnorme prassi, anziché il Parlamento le leggi vengono scritte o riscritte da sentenze, tanto che questa opzione viene contemplata come plausibile, anzi probabile, nel dibattito in commissioni e aula. Serve altro per capire che ciascuno deve tornare al proprio ruolo smettendola di surrogarne un altro. Questa è la conclusione del commento titolato Secondo noi, ma comunque tutti i giornali hanno questa notizia ben in evidenza. Pagina 18 di Libero: i giudici surrogano i politici, sia un'altra adozione gay. E anche Repubblica: svolta sulle adozioni, via libera del giudice al figlio con due padri. La Repubblica dedica addirittura due pagine, 12 e 13, a questa decisione del Tribunale dei Minori di Roma. C'è un'altra notizia di cronaca con la quale alcuni quotidiani aprono e che fa discutere, riapre la questione solita dell'autodifesa o della legittima difesa. Per la verità, alcuni giornali mettono due notizie insieme. La prima è questa terribile aggressione che c'è stata a questa studentessa di 22 anni su un treno sabato sera. Era un treno da Treviglio per Milano, un treno che questa studentessa Sara Arnoldi, come racconta il Corriere della Sera pagina 21, ha preso per andare a fare una serata di divertimento a Milano, ed è stata aggredita senza nessun motivo, cioè senza, così di colpo, mentre era seduta, con un martello da un cittadino rumeno. Tra l'altro si è scoperto che questo cittadino rumeno era già stato espulso, accompagnato alla frontiera con l'invito a non tornare più nel nostro paese. E invece la studentessa sul treno aggredita a colpi di martello per rubarle il telefono e 15 euro. La cronaca è di Federico Berni, racconta questa aggressione brutale, anche se la ragazza, che ora è in prognosi riservata, non rischia la vita, non ha mai perso conoscenza nonostante le martellate, nonostante l'aggressione. È riuscita lei stessa ad avvertire la polizia, però poi è svenuta, è stata portata in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma certo un'esperienza davvero terribile. Ma soprattutto è l'altra vicenda raccontata dai giornali che riporta il dibattito sulla legittima difesa in primo piano, e cioè succede a Villa Literno in provincia di Caserta: spara ai ladri in casa, ne uccide uno, era l'ottava rapina. Irene De Arcangelis lo racconta su Repubblica, pagina 16. Il ladro entra in casa da una finestra aperta, prende un portafoglio, le chiavi dell'auto della vittima, il telecomando del cancello che protegge la villetta, è quasi fatta. Ma il padrone di casa viene svegliato dalla figlia, che si accorge del furto e lancia l'allarme. La figlia, che era tornata proprio in quel momento alle 3:30 del mattino, e vede la scena e dice: «Papà», chiamandolo, «stanno rubando in casa». Il papà esce, dopo aver preso la pistola, e spara. Si affaccia alla finestra, spara a ripetizione. Ferito al primo colpo, il ladro albanese scende dalla macchina per rifugiarsi nella vettura dei complici. Si volta, secondo la ricostruzione, verso il signor Diana e grida: «Perché mi spari?». Mentre Diana continua a sparare, un proiettile raggiunge il ladro al collo. I tre complici fuggono e invece uno dei rapinatore, appunto, rimane morto. Tentano di rubargli in casa, lui spara e uccide, è anche il titolo della Stampa. E c'è un'intervista, non è la prima, che il ministro alla famiglia, neo ministro alla famiglia Enrico Costa, del nuovo centrodestra, già vice ministro alla giustizia, ora promosso ministro per gli affari regionali con delega alla famiglia, fa a Libero. E in questa intervista a Libero Costa dice: bisogna proteggere la famiglia e sarà un diritto. Dobbiamo modificare la legge sulla legittima difesa, individuando e specificando le condizioni oggettive e soggettive in presenza delle quali scattano le condizioni per la legittima difesa. Occorre entrare nel dettaglio, stabilire qual è il confine, scrivere ciò che è consentito da quello che non lo è. Altrimenti succede come è accaduto per la riforma del 2006, legge salutata con trionfalismo dall'allora guardasigilli della Lega Roberto Castelli, legge che però si è dimostrata inefficace. Questo, dice Costa, va tutto modificato. Allora, torniamo sulla questione Affittopoli a Roma, ma come no? Ma eccola qui! E tra l'altro avremo ospite poi Alfonso Sabella, ex assessore a Roma, più avanti, insieme a Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Eccola qui! Eccole le cifre snocciolate. Ieri abbiamo detto che Roma incassa poco come comune. Roma incassa poco. Sentite qui. Vivere in centro a 5 euro al mese. Ieri il commissario Tronca ha fatto il suo dossier sugli sprechi, sui mancati incassi degli immobili comunali nei quali vivono i cittadini di Roma. Roma butta ogni anno 250 milioni di euro in affitto. Cari cittadini romani, potrebbero raccogliere nelle casse del vostro comune, Roma Capitale, 300 milioni. Invece ne incassano solo 50. Gli altri 250, non lo so. Gli altri 250 sono come questi. Quelli che danno il là all'articolo che mi fa più zare della giornata, l'articolo da mani sul volante se siete alla guida. Guadagna 700.000 euro, avvocato stimato, e ne paga 200 d'affitto al mese. 220 per la verità. Un canone ridicolo, patetico, paradossale, così l'ha definito il commissario Tronca, che fatica, come scrive Repubblica, a individuare l'aggettivo giusto per raccontare le dimensioni di uno scandalo, l'Affittopoli romana, che da decenni divora risorse pubbliche, drena investimenti, come il rinomato ristoratore di Trastevere, che fattura più di un milione d'anno, ma per il suo ampio locale versa 380 euro al mese, scarsi, 379 qualcosa. Oppure il pensionato che guarda dritto in faccia l'anfiteatro Flavio per 300 euro, che peraltro non ha mai pagato, ha accumulato 78.000 euro di arretrati fino a oggi, pari a 22 anni di affitti ignorati, capito? C'è un pensionato che vive con l'affaccio dell'anfiteatro Flavio e paga, anzi non paga, da 22 anni l'affitto da 300 euro al mese. Ma dove volete andare? Ma dove vuole andare Roma? Affondare. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il Tronca dell'informazione. Giusto, sarebbe tre volte. Tronca. E allora, se mi candido a Roma, adesso ripeto, dobbiamo ancora decidere gli ultimi dettagli, affitti gratis per tutti, ma tutti i romani, tutti, anche coi privati, aboliamo tutti i contratti di locazione e dunque affitti gratuiti con immobili del comune, contratti tra privati, facciamo fallire tutte le agenzie, non importa. Subito, primo decreto, primo giorno, è ingiusto che alcuni possano godere di privilegi che dovrebbero valere per tutti i cittadini. Io sono così democratico, o tutti o nessuno, quindi tutti, case libere, ognuno va a vivere dove vuole gratuitamente. Allora, cari ascoltatori, eccoci qui. Come detto, tutti i giornali aprono e dedicano 3, 4, 5 pagine a questo strazio davvero dell'incidente che c'è stato in Spagna e che ha coinvolto molti studenti Erasmus, con la morte anche di 7 ragazze italiane. Io devo dire, non leggerò, non, perdonatemi, ma non leggo notizie di cronaca, voglio ricordare solo i nomi certo di queste 7 ragazze italiane, poi ce ne sono anche ovviamente tanti ragazzi e ragazze straniere. Sono 13 le vittime totali. Le 7 italiane sono Valentina Gallo, Elena Maestrini, Elisa Valent, Lucrezia Borghi, Elisa Scarascia Mugnozza, Francesca Bonello e Serena Saracino. Ci sono i volti, ci sono tanti articoli di cronaca, appunto. Le uniche due cose che mi sembrano rilevanti nelle tante pagine, poi se volete le potete cercare con tutti i particolari, sono la frase dell'autista, come raccontano tutti i giornali, indagato per omicidio colposo plurimo, ha chiesto scusa dicendo a un medico: mi dispiace, mi sono addormentato. Questa è l'unica frase dal letto dell'ospedale. Anche lui è ferito per una contusione polmonare. 63 anni, non si era forse riposato abbastanza, è escluso l'uso di droghe, escluso l'abuso di alcol, un conducente che in 30 anni di lavoro aveva avuto giusto qualche tamponamento, ma non aveva mai mostrato nessun tipo di violazione, diciamo, del comportamento, almeno dal punto di vista droghe e alcol. L'altro articolo che mi preme segnalare è quello del secolo XIX, perché ovviamente adesso scattano le analisi e anche i dibattiti sulla sicurezza dei pullman turistici. 7 multe al giorno, questo scrive il secolo XIX, 7 contravvenzioni sono 2564 nel 2015, 2 le violazioni più frequenti per quel che riguarda gli autobus turistici. Il 90% delle violazioni sono eccesso di velocità e mancata registrazione delle ore di guida e alterazione dei cronotachigrafi. Questo permette ovviamente agli autisti, in maniera illegale, di fare più ore di quelle che dovrebbero fare e quindi purtroppo poi a portarli alla guida stanchi. Sono queste le cifre della Polizia Stradale sui controlli dei pullman da turismo. L'ultimo caso proprio ieri. A Siena una ditta ha fatto guidare, secondo l'accusa, senza inserire la scheda di registrazione nel tachigrafo i propri autisti e anche erano state nascoste gite turistiche nella loro interezza, rendendo invisibili centinaia di chilometri di percorrenza. È evidente, così scrive il secolo, che la stanchezza degli autisti determina poi quello che viene definito il colpo di sonno. Comunque, ripeto, trovate anche testimonianze di chi si è salvato, insomma, cronaca che è molto molto dura anche da leggere per queste 13 vittime, 7 italiane. Ci sono anche dei feriti gravi. Lasciamo questo fatto di cronaca e veniamo alla questione della politica. Qui il dibattito, il teatrino è quotidiano sulle amministrative a Roma. Giorgia Meloni cerca di smarcarsi dalle accuse di fascismo e questa è forse la notizia del giorno, mentre Di Maio, per quel che riguarda il centrodestra, Di Maio rilascia un'intervista al Corriere della Sera e conferma, intervistato da Emanuele Buzzi a pagina 16, che domani vedrà gli ambasciatori dei paesi europei. Con le ambasciate tratterò 3 temi chiave: immigrazione, Unione Europea e investimenti in Italia. Chiede il Corriere, che ieri aveva anticipato questa notizia, ci sarà una delegazione del Movimento? O con che ruolo si presenterà a loro? L'invito è personale, dice Di Maio. Andrò con i miei collaboratori come deputato del Movimento. Sono solo uno dei volti. Parleremo della possibilità di fare investimenti mirati nel nostro paese. E alla domanda, è stato invitato anche da personalità o governi stranieri per altri meeting? No comment, risponde Di Maio. Che poi risponde all'accusa di voler essere in qualche modo lui a cacciare Renzi. Di sicuro voglio cacciarlo, ma insieme al Movimento noi siamo un team e funziona bene se c'è lavoro di gruppo. Comunque oggi la politica è un po' stantia, un po' stanca nel dibattito. Certo, ci saranno nuovi colpi che renderanno spettacolare questo show delle amministrative. Mentre ci sono novità per quel che riguarda la Banca Etruria, ancora. Nuove questioni. Beh, Fabio Tonacci racconta su Repubblica che Banca Etruria è fallita anche per appunto i crediti poi non rientrati, aver dato tanti crediti ad alcune società e poi queste società non hanno ripagato, non hanno pagato i mutui, insomma, le rate. I debitori di Etruria, Caltagirone e Bellavista nella lista dei big. Ecco le sofferenze che sono tra le cause del fallimento. Ci sono 3 società del gruppo Acquamarcia di Francesco Bellavista Caltagirone, imprenditore arrestato nel 2012, poi assolto per una truffa legata al porto di Imperia. Ha preso 79,3 milioni, di cui almeno 45 non sono rientrati. Altre società hanno preso 50 milioni e 45 non li ha restituiti. Insomma, questi sono l'elenco delle sofferenze della banca oggi spiegate da Repubblica. Tra l'altro, ieri si è parlato di Banca Etruria, di questa liquidazione per l'ex dirigente, 1,2 milioni ha preso. che è finita all'attenzione della procura di Arezzo. Ebbene, per questi 1,2 milioni al direttore generale Bronchi, l'unico che non ha firmato nel CDA per questo 1.200.000 euro è Giovanni Grazzini, che oggi infatti viene intervistato dal Giornale. Parla, intervistato da Paolo Bracalini: io in Etruria, unico a dire no ai bonus. C'è stata una discussione in CDA, una lunga istruttoria, la mia coscienza e sensibilità mi dicevano che quella cifra era eccessiva, ingiusta rispetto alla situazione della banca e agli ultimi bilanci, ma non voglio dire di essermi comportato meglio degli altri consiglieri. Comunque racconta, e poi ovviamente la domanda va subito sul vicepresidente di allora, Boschi, è la figura che è controllata con più attenzione dai giornali, inutile negarlo, essendo il padre del ministro Mariana Boschi. Ha approfondito la questione anche Boschi e poi non si è opposto al via libera a quella liquidazione. Io invece ho sollevato dubbi, ho chiesto se era stato tenuto conto della situazione della banca, dei risultati non positivi degli ultimi mesi, mi è stato risposto di sì. Ma lei che opinione si è fatto dell'allora vicepresidente Boschi? Risponde Giovanni Grazzini: le dico la verità, non so come sia maturata la sua nomina alla vicepresidenza, era già consigliere di amministrazione, io ero un po' un outsider, rappresentavo i dipendenti, anche loro preoccupati, tuttora sono minacciati, insultati, oggetto di denunce. Vabbè, parla dunque al Giornale l'unico membro del CDA di Banca Etruria che allora si oppose al 1.200.000 dato in liquidazione al direttore generale Bronchi. Caro Mauro Meazza, a te arriva 1.200.000 di liquidazione presto? No, ma molto di più, spero. Buongiorno. Ovvio. Io firmo in bianco per te. Vedo che ci sono, aprendo, leggendo il Sole 24 Ore, appunto, i servizi di Sara Monaci, e anche ti consiglio quello di Fabio Pavesi sulle perdite sui crediti, che già anni fa erano tutt'altro che trascurabili. Si potrebbe anche puntare alle consulenze, per quanto ci riguarda, figuravano 17 milioni di consulenze, magari vediamo, ne parleremo magari con l'ufficio del personale, tu ed io. Ma troviamo anche una tua consulenza magari. In separata sede, sì. Oh, poi, no, naturalmente... dico troviamo una tua consulenza magari. Magari, spucciamo. Non lo so, ma non per Banca Etruria. Ah, ecco, appunto, quello. Purtroppo queste cose si sanno sempre troppo tardi, come dire. Scusami, ero distratto perché stavo ritornando invece su Sole 24 Ore, nelle prime pagine, dove si annuncia l'uscita dello spesometro. Verrà abolito lo spesometro. Tu rimani un po' così, mi rendo conto, smarrito, ma vi assicuro che, essendo una grande seccatura che colpisce soprattutto i soggetti IVA, questo annuncio di ulteriori semplificazioni in arrivo, di cui diamo conto anche nelle prime pagine e poi spieghiamo nella pagina 7, è molto importante. Ci sarà una semplificazione, saranno semplificazioni in più fasi, ma ti spieghiamo tutto appunto alla pagina 7. Tra le cose più importanti anche l'abolizione di studi di settore per i professionisti e anche per alcune categorie di lavoratori autonomi. Insomma, un fisco meno invadente si prospetta all'orizzonte. Ho fatto quasi una rima, quasi, perché essendo martedì e non lunedì, non uso rime baciate il martedì. Naturalmente, essendo martedì, tu sai che hai due cose da ricordarti. Il condominio, e si sa, ma soprattutto... Bravissimo, ma soprattutto il corso di educazione finanziaria, i tuoi soldi. Oggi, l'uscita di oggi, dedicata al profilo di rischio, solo in edicola... Oggi, solo oggi, con il Sole 24 Ore, quindi non venire poi domani a cercarmelo, perché devi andare oggi a prenderlo. Non so se sono stato abbastanza convincente. Ti voglio poi segnalare, c'è purtroppo un indice di obsolescenza, un termine tecnico, ma non è per far sfoggio di cultura, proprio è definita così in contabilità, dei macchinari. Cioè, la crisi ha portato a una minor riduzione, minori investimenti dei macchinari, e a questo proposito ne riferiamo dottamente e puntualmente nelle pagine di Imprese e Territori. Ma a questo proposito ti segnalo che domani, con il Sole 24 Ore, ci sarà un focus, un allegato proprio dedicato al maxi ammortamento, cioè allo sconto per chi fa investimenti. Quindi speriamo che questa nuova misura del governo, che illustreremo domani con il Sole, sia efficace. Oh, e infine, perché vedo che il tempo corre, non si arresta un'ora, E ti voglio segnalare, c'hai tempo fino al 30 aprile, hai tempo fino al 30 aprile per certificare che non possiedi la televisione. E così, tu ce l'hai la televisione? Sì, sì, sì, ce l'ho. Ah, e paghi allora. Ah, ma bravissimo, anche io, siamo già in due. Siamo già in due, ottimo. 100% di recupero. Il 100% del campione. Comunque, il se invece non la possedessi, sappi che entro il 30 aprile ci sarà il modo di autocertificare il non possesso della televisione. A questo punto io mi fermerei, vedo che appunto il tempo fugge, l'uomo non se ne avvede, e quindi traffico! Alessandro Mela, la babbaria dell'informazione. Babbarie, queste sono babbarie, diciamo sinceramente. La prima una B solo, la seconda con due B. Due B. Prima una bipa De Luca, strepitoso, babbaria. Allora, cari ascoltatori, eccoci qua. Era giorno di incontri ieri al Quirinale tra il Presidente della Repubblica e il Premier Renzi. E in questo incontro si dovevano parlare anche di nomine importanti. E il Corriere della Sera racconta, con Marzio Breda e Fiorenza Sarzanini, la frenata del Quirinale. Scelte sospese su Finanza e su Carrai, Marco Carrai. 41 anni, ex capo segreteria di Renzi alla provincia di Firenze, grande amico di Renzi, e su cui il Fatto Quotidiano da due giorni racconta anche insomma, degli intrecci, dei legami con varie società e lo stesso Renzi. Perché la frenata? Perché, come scrive il Corriere della Sera, tra Mattarella e Matteo Renzi, in questo incontro, il clima non è apparso affatto sereno, tanto che alla fine si è deciso di rinviare la scelta del nuovo comandante della Guardia di Finanza, che nelle intenzioni del Premier doveva avvenire già ieri. Via libera al generale Vecciarelli come capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, al generale Ricciardi a vice comandante generale dei Carabinieri, entrambi proposti dal ministro della Difesa Pinotti. Ma il blocco soprattutto è su Marco Carrai. Renzi voleva e sperava di poter inserire nel pacchetto di nomine la creazione del nuovo Dipartimento per la cybersicurezza da affidare appunto all'imprenditore amico Marco Carrai. Programma stabilito evidentemente senza consultare il presidente Mattarella, e sarebbe stato proprio questo il motivo principale dell'irritazione. Dunque, rinviata questa questione, e il Corriere racconta in una pagina di anche un clima tutt'altro che cordiale tra Renzi e Mattarella. Mentre sui giornali c'è la smentita di Berlusconi, che ha fatto anche una serie di interviste alla vicenda Vivendi Mediaset. Ieri Repubblica diceva che Mediaset presto diventerà francese, passando nelle mani di Bolloré e di Vivendi. Smentito da Berlusconi, che ha anche detto me ne occupo poco, se ne occupano mio figlio e Confalonieri. Oggi il Sole 24 Ore spiega tutta la vicenda e insomma la questione rimane ancora molto molto aperta. Ho uno sguardo veloce all'estero, certamente la notizia estera più importante è il viaggio di Barack Obama a Cuba, viaggio storico. Beh, comunque Raul Castro, il presidente, eccolo che... Non deve essere facile, scrive il Corriere, discutere con Raul Castro il tema dei diritti umani. Sentite quando un giornalista americano gli ha chiesto perché nelle prigioni dell'isola ci siano detenuti politici. La risposta di Castro: detenuti politici? Lei ha i nomi? Esiste una lista? Se me la procura, le assicuro che entro stasera i prigionieri politici saranno liberati. Questo Raul Castro, questo a dire Obama, che ha promesso prima o poi l'embargo con Cuba finirà, non so dire con sicurezza quando, ma finirà, però c'è ancora da lavorare. Comunque trovate tante interessanti analisi sul viaggio di Obama a Cuba, mentre vi annuncio che siete ostaggi del traffico sei giorni l'anno, siete come delle sardine imbottigliate, come del tonno a tranci in questo momento in delle scatole di latta. Sappiate che ostaggi del traffico sei giorni all'anno. Questo racconta il Corriere della Sera con Alessio Ribaudo e la classifica TomTom Index 2016, visionata in anteprima dal Corriere. Qual è la città dove si sta più nel traffico? Palermo. Il problema è il traffico. Palermo, si sa, citazione. Poi Roma, poi Messina, quindi Napoli e al quinto posto Milano. Se volete, c'è anche molto del dibattito, anche di genere, rilanciato dal campionissimo del tennis Djokovic, che in pratica ha detto: abbiamo più spettatori delle donne, delle femmine, e quindi è giusto che i maschi nel tennis guadagnino di più. Il valore delle tenniste, Gaia Piccardi lo racconta sul Corriere, ma anche Repubblica, tutti insomma. Non è la prima volta che un tennista maschio, non è il primo, Djokovic, si lancia in queste dichiarazioni su i maschi devono guadagnare di più delle femmine nel tennis, ovviamente. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qui, l'elogio di Belen, no! L'elogio di Belen, no! Sul Libero, l'elogio di Belen dopo l'intervista radical sciccosa con Fabio Fazio, l'elogio di Belen che unisce tenerezza e determinazione. Sul Libero, sul Libero. Ma chi se ne frega!